non si esclude nessuno, anzi è nell'essere ultras e nell'essere gruppo di curva avere come specifico obiettivo quello di includere e inserire qualsiasi tipo di persona senza assolutamente giudicare mai nessuno. Ecco, io penso che questo oggi è essere ultras a Montevarchi. In curva ci sono 3-4 generazioni di tifosi, dal signore di 50 che ancora non è irriducibile e in tribuna non ci vuole andare perché gli piace stare in curva a bere una birra e a fare un coro, al ragazzino di 14-15 anni come lo ero io quando ho cominciato a affacciarmi a questo mondo. Tutti siamo lì con un unico comune denominatore, la passione per il Montevarchi. Questo è essere ultras per me oggi a Montevarchi, senza poi entrare nelle dinamiche più specifiche di tifo che magari insomma c'entrano meno anche con quella che è la nostra identità e la tanto declamata montevarchinità. Sì, perché noi ci proponiamo di indagare quella che definiamo la montevarchinità attraverso le sorti dell'Aquila o comunque i racconti che sono legati alla squadra cittadina, che per noi è esemplificativa, no, della montevarchinità e quindi dell'essere montevarchini. A questo proposito, appunto, te dicevi prima che hai visto una Montevarchi meno allegra. In che termini, in che senso? Magari sono i tempi che cambiano, magari invece sono altre dinamiche che sono subentrate. Secondo me sono un po' i tempi che cambiano e un po' anche le abitudini della gente. Prima la sera, già prima ancora molto di più, però già quando c'avevi i bar lì ancora la gente veniva in centro, ci si trovava a bar, si passava lì le serate senza aver bisogno di niente, e ora invece magari tu vai in centro, vai in via Roma, soprattutto la sera è morta. Magari la gente o sta più in casa o si trova in altri punti della città. Io credo se tu vai al bar di Giglio la sera ancora un po' di vita ci sarà, però per esempio in centro i bar che c'avevo io credo addirittura arrivi dall'8 la sera e non si sta aperti fino all'1 la notte. Infatti una cosa interessante anche dal punto di vista del rapporto tra bar e tifosi è che rispetto a evidentemente 10 anni fa, anche diciamo 15, il centro da questo punto di vista si è totalmente svuotato anche di questa funzione, nel senso che comunque i tifosi sì, si continuano a trovare a Bar di Giglio, ma in pochi altri luoghi, mentre da quello che io sono tornato di là a Montevarchi più tardi in realtà, però da quello che sento raccontare, un tempo il centro era anche centro nevralgico di discussioni rispetto alla squadra e anche poi, come ci ha appena raccontato, di organizzazione anche a livello di tifo organizzato sia per le partite in casa che per le partite in trasferta. Invece, altra domanda, in questi 10 anni che te ne sei andato, come hai visto periodicamente, tornando comunque seguendo la Pizzi e Bocconi, i cambiamenti della squadra e del Montevarchi? Perché sono stati 10 anni piuttosto decisivi, insomma si è rivoluzionato un po' tutto, no? Ma come la vedo ora negli ultimi anni? Bene, si è vinto 3 campionati di fila, anche se sono campionati minori, però vincere un campionato non è mai facile. Tornando al discorso di prima, sì, in centro c'era non solo il mio bar, c'era tanti bar, c'era l'Anselmi, c'era i Lucatelli dove c'era sempre tifosi, magari da me c'era la parte dei tifosi più giovani e in quell'altro bar c'era quelli più, diciamo, più grandi. E come ho visto la squadra? E sinceramente io l'ho vista, cioè io torno poco, però ieri male, però dai, vediamo se piano piano si torna agli antichi splendori. Il suo spostamento dall'Umbria a Montevarchi e il suo approccio a Montevarchi, ma lo spostamento da Montevarchi a Verona, quindi di nuovo in una grande città, allora comunque, che differenze alla fine c'erano fra essere un calciatore di una squadra di città rispetto ad un calciatore di una squadra di una cittadina che comunque a fine anni 60 era aperta campagna? C'è meno calore. Qui uscivi di casa o dall'albergo, quello che sia, dalla pensione, e trovavi gli amici, prendevi il caffè, erano sempre gli stessi, non c'era differenza, stavi in casa, ecco. Lì fuori dallo stadio non ti riconoscevano, difficilmente. Soprattutto Verona, posti del sud come Taranto negli ultimi anni,

ve lo dico tranquillamente, sono stati i miei colori che mi sono portato tutta la vita e mi porto tuttora ad oggi. Chiaramente in quegli anni lì ho avuto anche la fortuna di giocare con dei ragazzi, vi fo un esempio, l'Andy Gabriele, che ha toccato la Serie B con Lucca Salernitana ed era con Orrico. Io che ho fatto a Montebarchi, poi ero andato in C1 a Agrigento, ma mi sono spezzato a Messina in Coppa Italia il ginocchio e sono dovuto stare un anno fermo. C'era Ballini, c'erano stati Gabrielli, Giachi, c'erano dei ragazzi, e poi nei dilettanti, in C un anno solo, ma nei dilettanti hanno fatto veramente le fortune delle società. Quell'anno fu un anno bellissimo perché vincemmo il campionato allievi e da quel campionato lì l'allora presidenti erano Lezio Losi e Vasco Farolfi, con la segreteria di Renato Piazzesi mi portarono l'anno dopo in ritiro con la prima squadra. Non avevo compiuto 17 anni, sono stato per 7 stagioni con la prima squadra, intervallate da un anno al 18° anno a Monte San Savino in Serie D, dove era allenatore Carlo Carroni, che poi mi ritrovai a Montebarchi nel biennio, secondi in Serie D e primi con la vittoria del campionato e Coppa Italia. E visto che noi comunque parliamo dell'Aquila Calcio come la società cittadina e attraverso quella indaghiamo quella che noi definiamo, amiamo definire, la montevarchinità, le tue impressioni in quei primi 2 anni a Montevarchi, che sono stati comunque anni in cui la squadra è andata ovviamente bene, avete fatto delle vittorie che sono rimaste nella storia poi della società calcistica, com'è che te hai visto la città partecipare ai festeggiamenti eventuali o comunque alla vita della squadra che andava in risultati positivi? Ma è stato emozionante perché qui si respirava veramente voglia della città di fare calcio, cioè voglia di ritornare a certi livelli. Io ho ancora delle foto a casa e vedere lo stadio rivedere pieno, ma veramente pieno, anche la tribuna di là, tutte e due le tribune, perché mi sembra la curva ancora irreagibile, però le tribune tutte e due sempre stragonne piene, anche perché abbiamo fatto un campionato quasi sempre primi, secondi, per cui l'interesse era altissimo. E aver raggiunto la promozione all'ultima giornata, tra l'altro con 2 gol miei, e anche la vittoria della Coppa, che è stata un'impresa, se uno ci pensa, si fece 9 turni e c'erano qualcosa come 590 squadre, perché c'era Serie D e promozione messa insieme. E addirittura poi c'è, a volte il calcio è strano, mi ricordo il primo turno a Poggi Bonzi, in casa avevamo fatto 1-0, lì perdevamo 1-0, al 90° Tiziano Casucci, che è uno montevarchino d'occhio, riuscì a pareggiare e da lì poi è stata tutta una cavalcata fino ai rigori di Chioggia con la vittoria sul Suzzara. E qui si respirava veramente un'aria, perché sai, in un anno vincere campionato e coppa è stato tutto un festeggiare continuo. Un'impresa penso che non sarà mai verificata a Montevarchi, un'impresa sicuramente difficile e che ci rende tuttora orgogliosi. E Marcello, una domanda che mi viene di farti: io ti vedo da sempre in campo con la tua fida macchina fotografica a riprendere quello che succede sia nel rettangolo di gioco ma anche quello che succede sugli spalti e particolarmente in curva sud. Che differenza fa trovarsi ad un certo punto al di là della barricata? Ma guarda, io nel Montevarchi dentro gli spogliatoi è tanto, e ci sono di società, ne ho viste tante, quindi ci avrei da raccontare tante cose. È stata un'emozione grandissima, perché in società, diciamo, adesso ci sono tutti amici miei, coetanei miei, quindi mi hanno trascinato un po' in questa nuova avventura, e io lo faccio molto volentieri, anche se non li lascio mai soli di foto, diciamo, si guarda sempre di tabbare un po' di qua e di là, però questa esperienza qui è un'esperienza bella, un'esperienza che mi dà stimoli, la faccio volentieri, e penso che per Montevarchi sia una cosa sia nuova e sia bella, e va tutto a maggior beneficio di tutta la società. Quindi ora faccio una domanda un po' effimera:

questo posto, perché tu prima hai detto molto spesso quando ero al Brilliperi, cioè era essere al Brilliperi, essere allo stadio. Essere al Brilliperi, tra l'altro con la passione me l'ha inculcata ancora di più mio nonno, che a un certo punto, perché troppo malato d'asma, non poteva, non ce la faceva più manco a venire allo stadio perché stava male, però lui era amichissimo di Vasco Farolfi, e quindi non potendo venire lui ancora di più mi incitava a venire io, e quindi rappresentava anche mio nonno io ai Brilliperi, quindi mi sono sentito di fare una doppia mansione e lo facevo ancora più entusiasmo. Ero un ragazzino, ripeto, perché io a 10-11 anni già ero ai Brilliperi, sono nato nel 68, quindi parlo degli anni 78, 77, 78 e poi ero già ai Brilliperi. Iniziamo il nostro viaggio, come sempre, alla ricerca della Montemarchinità, e partiamo con una persona come te, che ne ha viste veramente tante, ne ha viste veramente di cotte e di crude, da dei ricordi magari che vengono da un po' prima della tua discesa in campo attiva nella curva rosso-blu, vale a dire gli anni 80, l'inizio degli anni 80, quando il Montemarchi faceva dei bei campionati, addirittura la doppietta, campionato e coppa vinta nel 1984. In quegli anni lì tu sei stato testimone di alcune situazioni molto particolari a pensarci oggi, ad esempio lo stadio di Siena. Mi viene in mente uno stadio che adesso che il Siena ha fatto categorie molto nobili, è uno stadio di tutto punto rifinito, però ai tempi non era proprio così. Ce lo racconti? Io avevo 15 anni e ricordo a quei tempi, siccome ero un bambino, e i miei genitori non è che mi potevano mandare solo in trasferta in pullman a Siena, che erano sempre una partita un po' alto rischio, metti caso, e mio nonno, che è ancora in vita e ha 98 anni, tutte le domeniche mi dice che ha fatto in Montevarchi, mi domanda sempre che ha fatto in Monte, mi accompagnò alla partita. E mi ricordo che lo stadio per anni è stato in quel modo, perché la curva ospiti non era come ora o come è stata anche prima, perché è stata modificata più di una volta, c'era un greppo con l'erba, e quel giorno lì si partì, era tempo buono a Montevarchi, però venne una, come si dice a Montevarchi, una giubbata d'acqua, e venne una giubbata d'acqua, a un certo punto Cacciatori fece gol. Io mi ricordo che gente scivolò giù da questo prato, questo greppo, e arrivò tutti a schiantarsi nella rete in fondo, e insomma fu una partita che si vinse 2-1, fu l'anno dello spareggio a Empoli o la Massese, fu l'88 lì. Iniziava, diciamo così, il mio cammino nella curva. Cioè, iniziava prima, che negli anni prima il primo gruppo che feci fu con dei ragazzi ai palazzi, perché prima abitavo all'Acqua Morta, che era una zona di Montevarchi, e dopo trasferitomi ai palazzi con dei ragazzi facemmo un gruppo a fine anni 80, l'87 dovrebbe essere, si andò a vedere una partita con l'Asti, che era già retrocessa, si vinse 2-0, doppietta di Cacciatori, e si era fatto uno striscione in Indians, si stava in disparte, in gradinata, perché sapeva un po' di, insomma, si era ragazzini di 14 anni, chi meno, 10, 12, così si era un gruppettino. Poi nell'anno a venire ci fu un'evoluzione del mio cammino, perché anche l'evoluzione della curva fu anche lo stimolo a trascinarmi dentro. Insomma, davanti nell'88 ci fu il boom del calcio montevarchino, quando io ci andavo, insomma, si vinse lo spareggio a Empoli o la Massese, su. Ora, io sentendo parlare di greppi, anche se parlavi dello stadio di Siena, da allora mi viene in mente le ultime trasferte, o quantomeno le trasferte degli ultimi anni, in cui si sono rivisti, diciamo, greppi e campi che, come ho detto anche puntata precedente, parevano arati la mattina prima di giocare. In realtà la carriera, tra virgolette, di Riccardo sugli spalti dello stadio Brilliperi e nella curva sud abbraccia più o meno tutta l'epoca del tifo organizzato montevarchino. A questo proposito mi verrebbe da farti una domanda, che è poi una domanda cruciale, ma te la fo subito. A parte la partita con San Donà, di cui abbiamo già parlato quando è venuto Barzimelli, qual è la partita, da un punto di vista di tifoso, di ultras, che ricordi, che hai più vivida, diciamo, nella tua mente? Ma ce ne molte, logicamente quello di San Donà, che fu una domenica fuori luogo, perché insomma io sui 2-2 mi trovai in campo, nemmeno volevo io andare in campo, mi ci buttarono in campo

anche la non presenza dei tifosi allo stadio, ma in particolare i ragazzi della Sud che avevano in maniera civilissima, torno a dire civilissima, manifestato il loro disappunto nei confronti dei dirigenti di allora, che ci avevano purtroppo fatto scendere dove non eravamo mai scesi nella nostra storia. Allora Federico, la tua carriera parte da 7 anni nel Montevarchi. Quando tu sei andato a fare il primo allenamento, proprio la primissima volta, ti ricordi qualche sensazione, qualcosa? Tu sei stato un grande portiere in attività. Grazie. Dai, sì, sei arrivato a categorie molto importanti. Quindi, grazie. Quando tu entrasti per la primissima volta a giocare, cosa pensavi? Volevi fare gol? Pensavi ad essere un centrocampista? O proprio già pensavi di essere un portiere? Guarda, mi hai fatto una domanda molto interessante, perché io nasco in verità calcisticamente come centrocampista. Infatti poi gran parte delle mie fortune calcistiche sono dovute al fatto che ero bravo a giocare con i piedi, e che proprio in quegli anni, negli anni 90, fine 90, inizio 2000, che cambiò un po' di regole negli anni 90, che il portiere doveva giocare insomma con i piedi per essere bravo a fare il libero. E quindi proprio per questo insomma poi sono arrivato anche grazie anche a alcuni allenatori che hanno creduto in me o che hanno fatto un gioco particolarmente offensivo a calcare campi importanti. Nasco appunto, come ti dicevo, come centrocampista, ero anche abbastanza bravino, fino a che però mi ricordo che ero abbastanza alto e quindi avevo un passo un po' troppo lungo, no, per stare a centrocampo, alle volte perdevo il pallone così, e quindi piano piano, non so per quale motivo, non te lo so, non me lo ricordo, andavo a finire a fare il portiere, ecco. Ma a che età più o meno iniziaste in porta? Ma senti, io mi ricordo intorno agli 9-10 anni, 8-10, insomma, quella fascia d'età lì, sì. Mentre invece l'esordio in prima squadra a Montevarchi quando è stato? L'esordio in prima squadra a Montevarchi io credo di averlo fatto con l'Avezzini negli anni 90 forse, avevo 17 anni, sì, perché io sono del 1973, quindi forse nel 90-91, ancora andavo al liceo. Per un montevarchino giocare in porta era un onore per me, ma era anche una responsabilità. Alle volte pensando al calcio non si pensa a una parte importante, che è quella della responsabilità o del grande lavoro che c'è dietro a un giocatore. Ognuno di noi fa determinate cose, fa lavori differenti, e lì anche c'era anche la responsabilità, perché insomma sei al centro di determinate discussioni, attenzioni, e quindi devi tenere alta la testa sempre. Ecco, questo è per un giocatore che gioca nella propria città è importante. Lupo Valleri, al quale si potrebbe pensare di dedicare una via pure a lui, se tanto va fatta per Busoni, così anche per solidarietà alla Pronica, o quantomeno solidarietà montevarchina verso Livorno. Sì, volevo dire appunto che anche Busoni purtroppo non è conosciuto, perché obiettivamente si parla appunto di anni 30, quasi non un secolo ma vicino, per cui questo libro, questa mostra è fatta perché questo personaggio venga conosciuto, appunto apprezzato, magari anche dedicandogli non solo una via, ma per dire un torneo, un trofeo o cose del genere. Anzi, volevo fare un appello agli ultras della curva, se facessero, come è stato fatto, la bandiera per i nostri grandi Losi e Farolfi, una bandiera con l'effigie di Busoni, che è del libro, sarebbe molto bello, e di Lupo Valleri insieme, ecco, i due livornesi, e allo stadio vedere questa bandiera per far vedere la storia, le origini e il proseguio della... E perché no, del resto effettivamente a Montevarchi in due epoche tanto diverse, però nessuno probabilmente ha mosso tanti tifosi o comunque ha riscaldato l'animo di così tanti tifosi come appunto Lupo Valleri e Busoni. Tra l'altro io stavo sfogliando la pubblicazione che abbiamo qui davanti, è veramente molto bella e molto interessante anche da un punto di vista di ricerca fotografica, ma qui volevo tornare dopo, in relazione proprio a quello che avevi detto te prima, Fumino, a Massimo, dicendo quanto pagheresti per fotografare un Busoni. Leggevo la cosa interessante interessante, vista agli occhi di oggi ovviamente, che il Torino si aggiudicò Busoni per l'incredibile cifra di 80.000 lire per il campionato 32-33. A proposito di pagare cifre, e a proposito di pagare cifre che ci fanno capire quanto distante fossero quei tempi rispetto ai tempi odierni, alle cifre ovviamente che magari saranno pure proporzionali, però che girano oggi. In relazione comunque alla pubblicazione, stavo dicendo, una pubblicazione molto interessante, piena di belle foto d'epoca, e Massimo o Stefano, non so chi di voi si è occupato della ricerca, ma quanto ci è voluto per ricercare e reperire tutto questo materiale, anche fotografico, prima ancora che storico? Ma direi che la parte, cioè, le fotografie, quelle relative al periodo Montevarchino, le avevo praticamente tutte nel mio archivio, che poi io, diciamo, sono anche il tenutario dell'archivio dell'Associazione Fotoamatori Francesco Moghi, e quindi quelle lì. Le altre, bisogna dare merito a questi due signori qui, che hanno ritrovato le riviste, che hanno ritrovato i giornali, e in parte hanno ritrovato anche su internet, mi hanno dato le indicazioni giuste, sono state tratte quasi tutte da lì, ecco. Difficile è stato poi estrapolarle dalle riviste, e a questo ho pensato io. Scusa, vorrei aggiungere, innanzitutto buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Questo è Stefano Neri per voi, il santo, sì, subito. Sì, grazie per il santo, speriamo il più tardi possibile. Comunque, no, vorrei aggiungere che anche l'archivio fotografico del Gianfranco Pieraccioli è stato utile, è stato molto, diciamo, utile alla stesura del libro. Ricordiamo che appunto il padre di Gianfranco Pieraccioli ha giocato insieme a Busoni, e quindi era nata anche una certa amicizia tra i due, che è proseguita anche al di fuori del rettangolo verde, e diciamo molte fotografie ritraggono appunto Pieraccioli con Busoni nelle divise appunto rosso-blu, in questo caso sono bianco e nero, però rendono l'idea bene delle divise dell'Aquila Montevarchi. Ecco, questo appunto anche viene in ultima pagina, viene appunto ringraziato anche Pieraccioli per averci messo a disposizione l'archivio. E quindi Amerigo, raccontaci anche un po' come era vissuta dai Montevarchini e da Montevarchi la passione per il ciclismo in quegli anni, e com'era Montevarchi in quegli anni rispetto ad oggi. E la passione la c'era tanta per il ciclismo, molto più che nel calcio. Poi c'era il contrasto San Giovanni-Montevarchi, allora si pettinava fra noi. Anche in quel periodo lì c'era anche all'Evane, c'avevano la squadra, e anche un loro, insomma, era sempre guerra, però sempre amici, malgrado di non, ma quello niente. In gara ci si tirava delle legnate, però fuori gara si era amici. Come siamo rimasti amici ora? Perché quando ci si trova, purtroppo sono mancati il 90% di, insomma, e quando ci si rivede, insomma, viene un po' di macone anche. Quindi anche a Montevarchi mi pare di capire che il ciclismo fosse assolutamente lo sport forse il più seguito, anche più seguito del calcio, è giusto? E gli sportivi dell'epoca andavano sì a vedere le corse ciclistiche, ma anche le partite di calcio? Oppure c'era una netta differenza, chi guardava il ciclismo non guardava il calcio e viceversa? No, probabilmente andavano da una parte là, soltanto che se c'era nello stesso giorno, la stessa ora, la partita di calcio e una corsa di biciclette, venivano a vedere la corsa di biciclette. Montevarchi era così in quel periodo. Poi dopo il calcio ha preso il sopravvento, e anche perché in quel periodo probabilmente non solo a Montevarchi, ma probabilmente non dico in tutta l'Italia, ma in tutta la Toscana, in quel periodo il ciclismo era all'apice. Ora purtroppo io ho visto sui giornali lo stadio, un giornale sportivo. Il ciclismo non esiste, per lo stadio il ciclismo non esiste. Invece in periodo di io il ciclismo sullo stadio era qualcosa di straordinario, pagine intere, risultati di tutte le gare. Ora purtroppo erano anche i tempi del probabilmente conflitto sportivo